Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti voi in contatto con il Groovemaster Studio per un nuovo appuntamento del Soundcheck di Radio 24, il suono della musica. Buon pomeriggio da Gegè Telesforo e buon pomeriggio da Francesco Tromba. Buona domenica a tutti. Allora, mio caro Francesco, noi abbiamo lanciato questa nostra personale iniziativa con il Soundcheck Airplay Music Award, con il quale vogliamo premiare e soprattutto ringraziare personalmente gli artisti che con il loro suono hanno caratterizzato questa stagione 2014-2015 del nostro programma. Sì, delle produzioni fantastiche siamo riusciti a scoprire anche grazie a Bandcamp, SoundCloud, magari degli artisti che non sono proprio noti. È vero, non ci siamo limitati alla discografia ufficiale delle multinazionali, ma anche delle etichette indipendenti, ma abbiamo in qualche modo dato esposizione anche a artisti, nuovi talenti che probabilmente saranno il futuro della discografia ufficiale, scovati sui siti di riferimento di oggi, tipo Bandcamp, come dicevi, o SoundCloud. Ebbene, abbiamo suddiviso gli artisti in varie categorie. Le categorie sono International Jazz, Jazz Italiano, Black Music, ovvero per premiare gli artisti di R&B, Hip Hop, poi anche una sezione dedicata ai talenti, giovani talenti italiani per il tuo repertorio in italiano. Sì, e anche ai nuovi talenti internazionali. Esatto, e oggi in questa nostra prima parte del Soundcheck vi anticipiamo che poi alle 19:15 sarà nostro ospite il bravissimo trombettista italiano Luca Aquino, che verrà a presentarci un nuovo album dedicato alla musica dei Doors. Devo dire che sono proprio curioso di capire come ha fatto Luca Aquino, con il suono dolce, rotondo e morbido della sua tromba, a sposare poi il suono più rock dei Doors. Forse ci sarà un contrasto magari fra la sezione ritmica e la sua tromba. Ma ci piacciono i contrasti, lo sai. Sì, sì. Ci piacciono belli. Le differenze, ecco. Sì, ci piacciono. Allora, quindi in questa prima parte noi vogliamo ricordarvi quali sono gli artisti in nomination per il nostro Soundcheck Airplay Music Award nella sezione Alternative. Chi abbiamo inserito nella sezione Alternative? Sì, allora, Hiatus Coyote, che hanno pubblicato recentemente il nuovo disco Choose Your Weapon, che in realtà conteneva già dei brani rilasciati come EP precedentemente. Poi ci stanno anche Alan Hampton con Origami for the Fire, Lauren Vula con la Metropole Orchestra, Sing to the Moon era il titolo del disco. Sì, i Punch Brothers con Phosphorescent Blues, e ne abbiamo parlato di questa band incredibile qualche settimana fa, e diamo il via all'appuntamento con la mia preferita. Ti dispiace? No, anzi, devo dire che ho cambiato anche idea, ho riascoltato più volte il disco ed è Perfect Animal, veramente fantastico. Ah, hai capito che produzione ha realizzato con la sua Becca Stevens Band, questa ragazza che noi vi abbiamo presentato un po' in punta di piedi, ma che adesso negli Stati Uniti sta andando fortissimo, tanti concerti per lei, e mi auguro che qualche promoter intelligente abbia il buon gusto di invitare Becca Stevens Band in uno dei nostri festival per la prossima estate, se ancora fanno in tempo con il booking dei concerti. Sì, ho visto anche un po' di video, ha fatto diverse ospitate in televisione, funziona molto perché ha proprio una faccia pulita, carina, ma soprattutto elegante. È un grandissimo talento, Francesco, una ragazza, una musicista preparata, una voce definita, di un'intonazione invidiabile. Allora, presentiamo Becca Stevens Band in apertura per il Soundcheck Airplay Music Award. Il brano si intitola You Make Me One ed è una composizione di Usher, che poi è un artista R&B e rap, ma questa è la versione di Becca Stevens Band da Perfect Animal qui al Soundcheck di Radio 24. You make me wanna leave the fall. per il Soundcheck Airplay Music Award, la voce di Becca Stevens con la sua band in You Make Me Walla, ma un'altra artista si è distinta quest'anno con la versione sinfonica di Sing to the Moon, ovvero l'album, il primo album e poi di grande successo della bravissima Laura Mvula. Quindi qui dagli Stati Uniti ci spostiamo in Inghilterra. Sì, a Londra più precisamente. Lei è bravissima, è piccolina, però c'ha una voce veramente impressionante. E anche delle bellissime idee, perché con Sing to the Moon celebra le sue origini africane in una versione, in una chiave pop molto molto interessante. Sì, è stato categorizzata la sua musica come gospeledia, quindi psichedelia gospel. Pensate, allora Laura Mvula qui in She, bellissima composizione con il supporto del grande organico della Metropole Orchestra. She walked toward you with her head down. She wondered if there's a way out of the blue. Who's gonna take her home this time? She knew that this time wouldn't be the last time. Soundcheck, il suono della musica. The phoenix, she dies, the wings are burning, she sing from the sky to the earth returning. Allah, Allah, Allah. Altra band da non perdere se siete dei veri appassionati di musica e non vi fermate di fronte a cosa, Francesco? Al facile ascolto, ecco. Sì, è tosto questo disco. È tosto, si intitola Choose Your Weapon, ma questo brano Fingerprints lo trovo perfetto per il nostro soundcheck. Sono Hiatus Keyote con la voce della bravissima Ney Palm. Anche questo album è inserito fra le nomination del Soundcheck Airplay Music Awards. Ma come si vota? Potete votare allora sia tramite i social, cioè mandando la vostra preferenza via Facebook o via Twitter, e poi verrà conteggiata nel poll totale. Ecco, naturalmente nella pagina Facebook del nostro Soundcheck troverete in bella mostra la lista delle categorie degli artisti in nomination. Sì, lo metteremo sempre in testa per tenere presente quali sono i nominati. E poi potete votare anche tramite email, la email soundcheck@radio24.it. Si può utilizzare Twitter, insomma siamo connessi, ecco. Sì, siamo connessi. Ci sono dei concerti in giro in Italia per la prossima settimana? Sì, allora questa sera Mario Biondi sarà al Teatro Politeama di Palermo. Invece il giorno successivo, il 25, sarà al Metropolitan di Catania, quindi fa la sua Sicilia. Il 24, sempre questa sera, Jackson Brown all'Auditorium Parco della Musica, mentre il 25 sarà all'Auditorium Manzoni di Bologna e il 28 al Teatro Colosseo di Torino. Poi continua il Correggio Jazz Festival. Ecco, dove... allora facciamo una cosa, facciamo una pausa, parliamo poi dei Jazz Festival più avanti. Magari più avanti. Subito dopo aver ascoltato un altro album in nomination, ovvero Origami for the Fire del formidabile Alan Hampton, il brano si intitola Keep It in Your Dreams. Poi facciamo una piccola pausa, arriva l'informazione di Radio 24 e poi di nuovo in contatto con il Groove Master Studio per il soundcheck di oggi. Keep it in your dreams, I don't ever wanna see. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Cheek to cheek, palm to palm, just as long as you keep me close, just as long as you keep me close. E dopo l'informazione di Radio 24 fa la sua prima apparizione al Soundcheck il suono della musica Elani con All Fashioned Kiss, questi vecchi baci alla moda per questa artista che mi presenta proprio personalmente Francesco Tromba. Sì, in realtà dobbiamo ringraziare un mio amico che tra l'altro lavora anche lui a Radio 24, si chiama Francesco De Remigis, lo saluto. E lo saluto anch'io e lo ringrazio perché è proprio così che funziona la diffusione di certa musica, soprattutto di quella indipendente, ovvero il network di strada, il passaparola. Sì, ci vogliono gli spacciatori giusti. Noi, essendo grandi appassionati di musica, spesso ci iscriviamo appena scopriamo un nuovo talento. Sì, no? Ma soprattutto noi stiamo molto attenti anche alle segnalazioni che ci vengono fatte dai radioascoltatori di Radio 24, che ci segnalano all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it nuove pubblicazioni o artisti difficili da rintracciare. Sì, certo, bisogna comunque essere aperti. Noi ascoltiamo parecchia musica. Orecchie tese, mio caro, orecchie tese. Allora, ci sono ancora dei concerti. Avevamo tenuto in stand-by alcuni festival di jazz. Dove si terranno? Allora, continua il Correggio Jazz Festival che è iniziato ai primi di maggio. Tutti i concerti si svolgeranno al Teatro Asioli. Questa sera ci sarà Fabrizio Bosso con il suo quartetto, mentre mercoledì 27 ci sarà il nuovo quintetto di Gianluca Petrella. Giovedì 28 di maggio Hugh Masekela e la sua band. Sabato 30 ci saranno Mauro Ottolini insieme ai Susaphonics. Domenica 31, tra l'altro, presenteranno anche il loro documentario che ha lo stesso titolo del disco, Musica per una società senza pensieri. Si chiuderà. Fammi aggiungere che Mauro Ottolini con questo disco si è aggiudicato anche la nomination per il jazz italiano al nostro Soundchecker Play Music Award. Sì, proprio così. Disco interessante. Disco, sì. Lunedì si chiuderà tutto con il Times Quintet, che è composto da Maria Pia De Vito, Marcello Alulli, Rita Marco Tulli, Francesco Ponticelli e Alessandro Paternesi. Allora, prima di annunciare invece gli appuntamenti del Torino Jazz Festival, che è diventato importantissimo fra le manifestazioni più seguite nel nostro paese, magari lo facciamo fra pochissimo, direi di andare alla musica proponendo ancora una volta Hollywood Girl di questo Cole de Genova, che anche lui è un prodotto della Berklee School of Music. Eh sì, un musicista completo. Sì, ha fatto anche delle aperture importanti, ad esempio anche per Robert Glasper. E allora, Cole de Genova qui al Soundcheck con Hollywood Girl. Soundcheck, il suono della musica. It's where you are now, where you've been, and in my mind you're here again. And it's okay, and it's alright, if you don't make it home tonight. It's where you are, not where you've been. And in my mind, you're here again. Slow Motion Miracles è il titolo del nuovo album del vocalist americano direttamente da Chicago, Sachal Vasandhani, brano dal titolo Haystacks per questo bravissimo ragazzo, un ottimo talento molto richiesto in questo momento dalla scuola di Kurt Elling, un disco che apprezzerete non al primo ascolto ma magari al secondo o terzo ascolto. Sì, arriva in slow motion proprio come il titolo, piano piano riuscirete ad entrare nel suo mondo e a capire che si tratta di un bel disco. Di una bella produzione produzione particolare, un sound originale, è riuscito a trovare Sajal Basandani, coadiuvato da un ottimo producer, e approdando così a una multinazionale dopo varie pubblicazioni per indipendenti. Sì, e tra l'altro questo è il primo disco in cui ci sono la maggior parte di brani scritti da lui. Composizioni originali. Sì. Beh sì, quando inizi l'attività discografica come cantante di jazz è nella norma realizzare degli album interpretando i classici standards, e poi ti lasci andare anche come compositore. Ed è quello che è successo a Sajal Basandani. E parlando proprio di jazz, c'è un festival importante, lo abbiamo detto, il Torino Jazz Festival. Vediamo che cosa succede a Torino. Sì, dal 28 maggio al 2 di giugno. La cosa bellissima che mi piace in assoluto di più è che il jazz invaderà proprio le piazze anche di Torino. Eh sì. Ci sono tanti eventi che sono gratuiti. Il 28 maggio si comincia alle 18 al Museo Egizio con Anthony Braxton, Sonic Genome. Sì, che è stato chiuso per un po' il Museo Egizio. Sì, questa grande riapertura con 70 musicisti. Mamma faranno mia. 8 ore di musica continuata quasi. Poi il 29 di maggio ci sarà Danilo Rea che celebra Billy Strayhorn, perché è proprio l'anniversario della sua nascita. Sì, tu sai chi era Billy Strayhorn. Certo, uno dei più grandi collaboratori di Duke Ellington. Bravo, grande compositore. Dimmi un brano scritto da Billy Strayhorn. Adesso non mi viene in mente. Lush Life, per esempio, no? Tantissimo. Vabbè, andiamo avanti. Poi alle 21, sempre il 29 di maggio, Hugh Masekela Sextet a Piazza San Carlo. Il 30 maggio Steve Lehman, anche la passione secondo Matteo, il sorpasso in jazz con Fabrizio Bosso Quartet, Randy Brecker, la Monday Orchestra, quindi proprio un programma assolutamente ce n'è per tutti. Incredibile. Ci sarà anche Ron Carter il 31 di maggio con il suo trio. Poi ci saranno grandissimi anche delle masterclass con i maestri della Juilliard School. Ah, bellissimo! Tra l'altro si esibiranno anche il 2 di giugno a Piazza San Carlo. Eh sì, questa è una cosa che sta funzionando per i festival, quello di organizzare anche delle masterclass, che quindi dà intanto la possibilità ai musicisti di non fare come sempre toccate e fuga, di arrivare in una bella città, di fare il concerto e poi di trattenersi per le masterclass, quindi incontrare i ragazzi, ed è un'occasione ottima per apprendere direttamente dai protagonisti della scena jazz. Sì, è il 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica, si chiude il Jazz Festival con una quantità infinita di concerti. Ci saranno il trio Bobo, come dicevamo anche la Juilliard School, l'organico della Juilliard School, John DeLeo con il Grande Abbarasse, Francesco Bearzatti con il suo Tinissima Quartet, che faranno l'omaggio a Thelonious Monk in chiave rock and roll, Niki Nicolai e Stefano Di Battista, anche l'orchestra originale della Blues Brothers. Va bene, però per verificare poi gli appuntamenti, sì, c'è un sito di riferimento? torinojazzfestival.it. Ecco, facilissimo. Quindi ci vediamo a Torino per il jazz. Noi invece ci risentiamo più tardi a partire dalle 19:15 per la seconda parte del Soundcheck, che questa sera ospita il trombettista italiano Luca Aquino, che verrà a presentarci, come abbiamo detto, Over Doors, la musica dei Doors, Jim Morrison, rivisitata da questo talento italiano nel mondo. Ci sentiamo più tardi, sempre su questi schermi, sempre su Radio 24. Vi lasciamo con la felicità di Sean Escoffery con Natural School. A più tardi. Teachers, the politicians and the leaders, the ball breakers, money takers, the lying papers, movie shakers, public school debaters, the troublemakers and the haters, cheers. Check 1 2, mic check 1 2, mic 1 check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di JJ Telesforo. Turn it on, turn it on. Pronti per la seconda parte del soundcheck di questa domenica? Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e buonasera anche al nostro Francesco Tromba, pronto per introdurvi qui dal Groovemaster Studio la presenza di un mio amico meraviglioso musicista italiano che gira il mondo così come fanno tutti i musicisti, eccellente viaggiatore, in compagnia sempre del suo strumento, la tromba, strumento che conosce benissimo e tra l'altro con un suono assolutamente riconoscibile. Credo che sia una delle cose più importanti per un musicista, avere il proprio suono, e quindi parliamo del suono della tromba di Luca Quino, che ringrazio e saluto. Buonasera e benvenuto. Buonasera Gegè, buonasera Francesco, grazie per avermi invitato e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Luca, io sono felice di vederti, oggi parliamo anche di questa nuovissima pubblicazione che ti vede protagonista, tra l'altro per la Took Music, che è l'etichetta discografica del tuo pluridecorato collega Paolo Fresu. Come sei arrivato e come sei approdato all'etichetta di Paolo? Sì, in realtà Paolo è stato il mio maestro. Io vengo da un percorso un po' non, diciamo non normale, nel senso che non ho mai frequentato conservatori, anzi provai da piccolo a entrare ma non riuscii a superare gli esami di ammissione. Poi ho cominciato tardi a suonare, ho cominciato all'età di 20 anni e frequentai i seminari a Nuoro di Paolo Fresu. Da lì siamo diventati amici, poi siamo diventati colleghi quando ho cominciato a suonare e poi è diventato anche il mio produttore, quindi dopo i primi il tre tuo dischi, mentore. Perfetto, dopo ecco. I miei primi tre dischi con Universal, questo è il terzo disco con la Took di Paolo Fresu. Ecco, parliamo di questa produzione. Tu da musicista che comunque si cimenta in situazioni più o meno jazz, anche se sei onnivoro musicalmente, hai pensato di celebrare la musica dei Doors con un album intitolato Overdoors, e la cosa mi ha molto colpito perché il tuo suono, che è caldo, morbido, rotondo, sposa poi una ritmica in molti brani abbastanza tosta, tipicamente sì, rock. Certamente. Io ho cominciato ad ascoltare la musica grazie ai Doors, grazie a Jim Morrison. Non vengo da una famiglia di musicisti, tranne mio nonno che adorava la musica classica, però sai, aveva dei vinili nascosti che non ascoltava più, che poi dopo ho rispolverato. E grazie a Jim Morrison, grazie in realtà al film di Oliver Stone sui Doors, film che poi io avevo un po' sopravvalutato, mi sono innamorato dei Doors e così ho cominciato ad ascoltare la musica. Devo dire che in realtà poi, quando poi ho cominciato a suonare la tromba, il primo brano che ho suonato è stato Mala Femmina, il secondo Riders on the Storm, quindi c'è un legame forte con sì, perché tu sei campano di sono origine. Campano di Benevento, di Benevento. Sì. E quindi dopo un po' di anni di attività, dopo qualche disco e qualche esperienza, mi ritrovo proprio a Parigi e proprio lì ho pensato, perché non un tributo ai Doors, e così è nato Overdoors, tra mille difficoltà. Allora, prima di ascoltare Blue Sunday da Overdoors per Luca Quino, direi, caro Francesco, di presentare la figura artistica del nostro amico. Sì. Trombettista, flicornista e compositore nato a Benevento. Nel suo sound si possono rintracciare tratti nordici quasi scandinavi, quindi compone una sorta di ossimoro sonoro. Anche fisicamente. Sì, un campano della Scandinavia in un certo senso. Prende la tromba in mano a 19 anni, però l'abbandona per dedicarsi poi agli studi in economia. Ovviamente il primo amore per la tromba è nato grazie a Miles Davis, come molti altri suoi colleghi. La musica però è più forte dell'economia e le note di Chet Baker si insinuano dentro di lui e lo spingono a riprendere in mano la tromba, che poi non abbandonerà mai più. Luca Quino è principalmente un autodidatta, ha avuto pochi maestri ma ovviamente di un certo livello, come ad esempio Paolo Fresu, come diceva prima, ha avuto anche i consigli di John Hassell e Enrico Rava, che hanno contribuito comunque alla sua formazione. Suono essenziale, melodico e privo di futili virtuosismi. Per riassumere potremmo citare Miles Davis: perché suonare tutte queste note quando possiamo suonare solo le migliori? Non ha mai nascosto la sua passione per il rock e il suo ultimo disco celebra nuovamente i Doors. Andiamo ad ascoltarlo allora. Eccolo qui allora, Blue Sunday, Luca Quino da Overdoors qui al soundcheck di Radio 24. E E questo era Blue Sunday, tanto per introdurvi il suono creato da Luca Aquino con la sua tromba per questo album dal titolo Overdoors. Si celebra qui la musica dei Doors, Jim Morrison e gli altri, per l'etichetta di Paolo Freso, la Took Music. Naturalmente hai collaborato con musicisti che potevano regalarti questo impianto sonoro. Chi sono? Sì, in realtà sono molto fortunato, perché a me piace sempre collaborare con persone con le quali poi ti trovi anche davanti a una birra. Io ho la fortuna di avere come compagno di viaggio al basso Dario Miranda. Ah, non di bere molte birre. Anche, sì, è un bassista anche lui di Benevento. Poi alla batteria Emanuele Lele Tomasi di Roma, e alla chitarra Antonio Iasevoli, che in realtà è nato a Napoli, ora vive a Roma, però anche lui è stato a Benevento vari anni. È stato abbastanza complesso produrre e immaginare quest'album e anche poi registrarlo. Sai, quando si producono e si registrano brani con musiche proprie, può essere difficile e può essere facile. Secondo me poi invece creare un tributo è difficile, punto, perché poi ti metti comunque vicino ai mostri sacri, non sai bene come prenderli, come elaborare i brani, se rielaborare i loro brani, quindi non sai se percorrere un se avere un percorso coveristico, quindi prendere il brano e definire la linea melodica col tuo suono, ma oppure non è il tuo sviscerarlo caso. Del non tutto. È il tuo caso, non è il caso dei musicisti di jazz, che sono curiosi, creativi e devono elaborare con la propria struttura musicale, la propria esigenza. Esatto, e con le proprie esigenze. Ok, senti Luca, allora io direi di presentare Yes the River Knows. Che cosa avete combinato qui? Yes the River Knows, a mio avviso, è tra i brani più belli dei Doors in assoluto, una ballata magnifica, e in questo caso noi abbiamo preso la melodia e l'abbiamo non sviscerata, ma suonata così com'è. È un in duo tromba e chitarra classica. Soundcheck, il suono della musica. E per la presenza in studio del nostro Luca Aquino, oggi in qualche modo stiamo celebrando la musica dei Doors, certamente in una seconda parte di solito dedicata al jazz potrebbe sembrare quasi una dissonanza, anche se poi in molti casi nella musica le dissonanze funzionano. John Scofield con Medeski, Martin Heywood celebrano anche loro le composizioni di Jim Morrison, e questo era proprio forse il titolo più importante del loro repertorio, Light My Fire. Quest'anno tra l'altro ricorre anche il 50° anno, cioè praticamente i Doors si sono riuniti 50 anni fa. Sì, si sono formati nel 1965, poi sono durati fino al 1973, si sono sciolti ufficialmente 2 anni dopo la morte di Jim Morrison. Ecco, allora mi ha colpito molto perché quando Francesco ha letto la tua scheda non sapevo che tu avevi intrapreso anche una carriera universitaria tentando di fare da grande che cosa? Il commercialista? Sì, mio padre commercialista, mia sorella commercialista, mia mamma commercialista. Ecco, quindi pensa che io... pure io ero iscritto a economia e commercio, però non portai a termine gli studi, anzi soltanto il primo anno, mi fermai proprio al primo esame, quello di statistica. Economia, sì, sì, ma la musica, il richiamo della musica era troppo forte, poi feci un incidente stradale andando all'università e pensai che l'università poteva essere troppo pericolosa per un musicista di jazz, quindi ho cambiato completamente percorso. Allora, hai tanti impegni prossimamente, so che sarai anche a Roma, dove? All'Auditorium Parco della Musica, Francesco? Sì, il 31, domenica prossima, presenterà appunto il suo nuovo disco Overdoors. Poi sarà a Parigi il 13 di giugno e poi inizia tutta la tournée estiva. venerdì 26 giugno sarà anche in Germania ad Esslingen. Beh, le date sono tante, io direi di consigliare il sito di riferimento per poter seguire tutta la tua attività di viaggiatore con tromba, ovvero lucaaquino.com. Praticamente Parigi è un po' la tua seconda città. Sì, in realtà sì, anche soprattutto perché da un po' che collaboro con col batterista Manu Cacci, quindi grazie a lui mi ha aperto un po' le porte a Parigi. Sì, che in questo momento Manu sta lavorando anche in televisione con un programma molto ben realizzato, ha finito la produzione. È terminato, però un programma importante in Francia, sì, no? È stato bello, come è stato bello il Sostine Bollani in Italia, solo che poi lì è durato 2-3 anni invece da mai come Doc qui, però lo voglio dire, scusatemi, no, no. Lì no. Lì è come Louis Armstrong, no? Allora, Overdose il titolo dell'album nuovo di Luca Aquino, e che cosa vogliamo ascoltare? Io direi di ascoltare, non so, Yes in House. Perfetto, andiamo? Andiamo. Soundcheck, il suono della musica. Ma me a bercé mon corps pour la vie. E questa è una versione particolare di La Mer, la composizione di Charles Trenet per la voce di Lucio Dalla, da un album intitolato Dalla in Jazz, ma nella versione del nostro Luca Aquino. Un'operazione discografica per la distribuzione della Sony per celebrare la passione del jazz di Lucio Dalla. Infatti in questo album è presente un po' il gota, l'eccellenza del jazz italiano contemporaneo: Giovanni Mirabassi, Paolo Fresu, Luca Aquino, Stefano Di Battista, Maria Pia De Vito, Flavio Boltro, Peppe Servillo e Cavia Girotto, Enrico Pierannunzi, Nick the Nightfly, Fabrizio Bosso, Gatto, insomma ce n'è per tutti. Anch'io ho fatto qualcosa, ho realizzato la mia versione di un brano molto divertente del 1983, brano che non veniva proposto in radio proprio perché aveva questo titolo, Stronzo, ma noi lo abbiamo fatto. Allora, Luca Aquino, nostro ospite per presentare Overdose, la musica dei Doors rivisitata da uno dei migliori trombettisti italiani in questo momento, molto attivo all'estero e tra l'altro attivo anche nel nostro paese con un piccolo grande festival che si tiene ogni anno d'estate a Benevento. Ci sarà anche quest'anno? Ci stiamo ancora lavorando, io ho un gruppo di amici, la forza di questo festival è che è organizzata con amici, ritornando alle birre insomma, con i quali ho bevuto litri di birra, amici che conosco da tanto tempo. È un festival oggi indipendente, nel senso che abbiamo deciso di non avere più contributi pubblici, in quanto sembra che oggi ricevere contributi pubblici significhi indebitarsi, perché arrivano poi in ritardo con funzionari, specialmente per quanto riguarda la regione Campania. Sì, molte volte mettono in ginocchio gli organizzatori. Infatti, quindi siamo diventati molto più piccoli, però come hai detto tu anche più grandi, perché poi abbiamo un pubblico fantastico, quindi ci stiamo lavorando e vedremo se riusciamo a organizzare questa. E quindi funzionerà di solito come funziona l'economia di un festival, con lo sbigliettamento ma anche con l'intervento di privati appassionati, piccoli sponsor privati e sbigliettamento. Io volevo farti una domanda, i tuoi dischi si trovano facilmente su Spotify, cosa ne pensi di questo e credi che questo canale possa contribuire a diffondere la musica, ma credi anche che sia sostenibile per gli artisti oppure no? Per quanto riguarda la promozione di un artista, ritengo Spotify sia efficiente ed efficace. Non sono un produttore discografico, anche se un mio sogno è quello di aprire un'etichetta discografica, quindi non so le etichette quanto la perdita economica delle etichette sia dovuta poi a Spotify, se ad altri meccanismi, quindi questo non te lo so dire, però per quanto mi riguarda, per la divulgazione della musica, ovviamente Spotify serve molto. Allora, grazie Luca per la partecipazione, non vorrei rubare dedicare altro tempo alla tua musica e vorrei chiudere questo nostro incontro con un altro brano tratto da Over the Doors, ovvero la musica di Jim Morrison, Manzarek e i Doors, brano intitolato Peace Frog. Quando ci rivediamo? Ah, quando vuoi. Io spero con tutto il cuore di riuscire a invitarti anche a Riverbury, quindi vedremo che, se riusciamo a organizzare che il un festival che fai a Benevento. Sì, va bene, noi siamo qua, facciamo questo lavoro, i miei numeri ce li hai. Sì. Grazie a tutti voi, vi lascio con la musica e il suono di Luca Aquino, noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre per il Soundcheck, sempre e soltanto su Radio 24. A tutti voi buona serata e buona musica da Giorgio Telesforo.